27. Adesso. Comunque sto spiegando, funziona l'accordatore. Sì, beh, sì, ci mancherebbe, sente dei rumori, vuol dire che allora, in poche parole, cosa succede? Dimmi se sbaglio. Giustamente, se tu schiacci, io schiaccio, cioè da là non funziona, perché dopo la 27 non c'è stazionario. Per quello io non ho visto mai la spia a Tittune accendersi. Però se io metto il dito, lo schiaccio a Tittune, e poi anche l'altro devo schiacciare, quello alto, tutti e due insieme, allora mi accorda. Dovrebbe accordare come schiaccio portante. No, lo sai come accorda, Antonio? Non so se è giusto, devo leggere le istruzioni. Schiacci il tasto a Tittuna senza che c'era la portante, e poi schiacci il tasto a fianco a Tittuna, quello alto, e lui fa tutto da solo. Così dovrebbe essere. Dovrebbe essere così. Ma te sei delegato, comunque vuoi. Invece ce l'ha, sono contento, lo sai. E ci mancherebbe altro, grazie. Luca mi ha prestato un fluttuatore di antenna, ma per carità, non mi serve a nulla. La faccio contatto tu. Se non faccio contatto è un casino. Adesso devo aspettare un attimino che devo provare un microfono che mi ha dato Luca oggi. Aspetta che lo colleghi. Guarda, poco fa stavo sentendo da altre parti. Quello si è comprato un microfono ai cinesi, l'ha modificato, costa 10 minuti in treno, 15 euro. Microfono. Lo stavo ascoltando perché lo stava spiegando a Guido, ha detto non ce n'erano altri, arriva Derby del Givi, l'ha pigliato, gli ha cambiato, aspetta, l'impedenza, il condensatore, una resistenza, il condensatore una resistenza, ha messo la radio, esce bella, pulita. Allora. Sì. Non ho troppo alto. Inizia appena. Com'è? Com'è? Se non fa ridi, così va a farlo. Adesso sto provando, però sicuramente è ancora alto. Sto provando quel beringer dell'altra volta con l'amplificato. Guardate come vado, perché adesso ne provo un altro. Uno, due, come sono? Si sente, ma non come quello che è il tunnel esteriore, no? Sì. Adesso prendo l'altro. Sì. Adesso ne sto provando un altro. Come mi senti? Basso. E adesso, Antonio, come mi senti? Sempre basso? Sempre più basso di quello che ti sento. Adesso come mi senti? Adesso ho aumentato. Ma la modulazione è bella o è brutta, cupa? Certo che è meglio l'altra. Quindi sempre meglio il tunnel. Ma è meglio questo o quell'altro che stavo usando? Più o meno sono gli stessi, però non è una cosa buona. Adesso provo a togliere la modulazione. Adesso non sono amplificato. Basso. Adesso ho aumentato, guarda di come sono. Sì, ho aumentato, però buono di radio no? Il tunnel è tunnel, dai, ho capito. Guido va una saldimbrica. Adesso ho aumentato un po' il microfono, come mi senti? Sempre brutta, la modulazione non è bella, vero? No, si sente anche il rumore sotto. Adesso sono col tunnel, un'altra cosa, no? Yeah, è più chiaro. Non sappi più di roba di nada, tra lì amplificato il microfono da nulla. Sei sempre mattugente. Sì, io ho speso. 80 euro per le mie cicette. La volta di svegliato il microfono e il tavolo da adattare altri 25 euro. Poi l'amplificatore 50 euro e l'altro microfono 30 euro. Quindi so, 80. I 25 sono 105, più 50, 155, 80 alle 60, 50 amplificatore, 130, più 30, 160, più 25, 185 euro, mi hai fatto quindi pannuta. Cosa ci stai in commenti, cosa dovresti impiegare più già usare bici d'uso? Niente, devo fare esperimenti, perché secondo me vanno bene in quel discorso là, in HS, con propagazione, secondo me sparano, possono entrare. Ma cosa devi sparare, figli? La cazzo della cucina d'anzola, chi tu, cazzo, quello che hai messo? Hai preso questa macchina e sta usando il tarlet più 3, ma cosa stai dicendo? Ciao, allora sono ti macchini, sono fuso, eh. E non usano come profumi da carota. C'è chi li usa, però se uno non vuole problemi, proprio non vuole nessun coso, usa questi, sono più la battaglia. Tu invece ti sei ostinato. Tira avuti a Tittone la prima volta, adesso lo doveva spiegare, ma forse era bloccato. Può essere puro, magari era da tanto tempo che non veniva usato. Cortare passa da M e se ne fa in CV doppia. Non l'ho provato io, mio amico. Ma tra la cosa che non per bellezza. Sono un trattamista, ma cosa? Se cazzo mi voglio ammazzare all'altro. Devi trattarli con i corpi, Non sei come Luca. E intanto c'è in chili, già non mi manda a bani. Ma devi trattarlo. Ci mancherebbe altro, è normale che si viaggi di tratto, però non è che ponga in cammino tutto l'altro, ho tratto uno o ho tratto l'altro, no, scusa. Beh, 80 metri, non è nessuno. In che frequenza è? 3, 6, 6 e 8. No, non li prendo. Che cosa? Non è più? No, non li prendo. E come non li prendi? Cazzo, mi arrivano 9 a me. C'è qualcosa che non va. O non prende, perché come ti ho detto io è andato fino a 40 metri. Perché se vado in 40 metri qualcosina la prendo. Allora non hai capito, ma mi prendo qua un altro, va io, cazzo. Non posso spiegare, ma allora c'è qualcosa che non fa. Io non ho più preso che il compagno di Cinciacchino. Il polo semplice preso, a 40 metri, perché per 80 metri non ci sta. Ma come non ci sta? Ma poi si fila lunga e si dà voi. E poi la capitura non si faceva nessuno. Ma è strano, non riesco a prendere neanche un posto. Mi sembra strano perché io qua, guarda, adesso perché la propagazione sta andando via, però ce l'ho 8, 7, 8 arrivano. Devo provare a aprirlo di più, secondo me è troppo chiuso. Come ti ho detto, provo a aprirlo di più come gravazione. Ciao Lu, hai letto il messaggio, già c'era l'accordatore. Sì, è che io l'ho provato. È stazionario, non è ho, sicuramente lui non c'è attaccata. Poco fa ho il dipolo, mi di volto, e si è accesa la spia Tittune e si finì un rumore drenti, tro. E tu, ciao Luca, ma tu vuoi che giù dal telefono fa casino, lì tu cazzo, lì stai cazzo, boh, io non lo so. Ma parlato della giornalista e ci ho detto con lei. Come tanto è lui? Corra, ma cosa ti costa prima? Sai, sta cazzo in mano con questo servizio a prendi che ha tu tutto video che c'entra in mano. Cosa? Di cui c'è la bucanina che ci vuole se fanno una volta? Boh. Guarda, dice, fatto che ci ha preso il re, mi sono preso il re, la funzione. Cioè già funziona, non vorrei funzionare bene. Comunque tu per farlo funzionare lui, senza schiacciare portante, schiaccia a tizzone e poi il tasto a fianco alto. Allora, ci sono tre tastini, c'è la portante fissa, alto e a tizzone. Io il microfono non lo tocco, schiaccio il tasto a tizzone e poi quello a fianco alto e si mette la portante fissa e se lo regolo, così non devo fare altro. E poi una volta accordato non c'è ancora più, rimane ancora fatto, c'è quell'indice lì. Però ho notato una cosa, per esempio nel dipolo, quando ha accordato, si è sceso a 1,3, 1,4, 1,5, però quando metto la portante, metto le cose in SVR, per esempio nella 27 MHz non si muove niente, invece con il dipolo saliva, i picchi salivano, 6, 7, capito? Fare tutto, dai 10 ai 40 metri, però non mi piace, devo pensarlo bene, non era troppo chiuso, voglio provare a aprirlo di più. E così ho fatto, però l'ho fatto all'angolo più piccolo di 90, invece adesso lo tiro di più, lo faccio mettere quasi dritto, là. Devo già subito attaccarmi, là. E se no lo faccio così, già lo tiro. E intanto il filo del dipolo è quasi trasparente, no? Però mi metto d'accordo con quell'altro radioamatore che c'è vicino, che è a due palazzi. Quindi se stendi più un dipolo più, me lo prendo io. Se una casa a me, io lo mando questa casa a due. E ma di mezzo c'è un'altra casa con un po' stile. Uno va a stare sui cavi di sopra e dice, vabbè, giovano. È 40 metri più in alto di me. Ah, non te l'ho detto però. Sono andato con l'altino, l'ho provato, prima stoccato. Antonello è più alto di me di quasi 40 metri. Ma cosa? No, ma a parte quello, a parte la città di campagna, tutto di più, lui è proprio con un girato con la tinta, 40 metri lì, da livello del mare, più alto di me. Sì, ma Emiliano lo può pure Mattesi, e Eugenio aveva la stessa cosa, ha detto buoni di un traliccio, fa un traliccio, cazzo, la cibumato la volta, la direttiva, cazzo, sta direttiva per la 27, ma pensa però, poi c'ha pure un poco, la buona e si è andato. No, è male, è questa che tremando la volta, ma pensa a vedere questa antenna. E mi ha la terra ci manda, la manda della mia al volo, se ce l'hai. È bella, mi ha giocato pure a Claudio, e tu cazzo bella se è bella questa antenna. E questa pure buona che funziona, eh. A chi l'ha già pensata il conto, ci si chiede tra l'altro qua, e dici funziona. Poi, ripeto, non è che posso affermare questa cosa, però vanno approvata e chi vedo il robot la presenza su YouTube e funziona questa cosa e costa poco pure, capito? Non so cosa dire, non lo so, non mi ricordo più. manca l'antenna che mi dà i sicuri hanno problemi o magari ha trovato conto il secondo del punto dei tratti Azzeccato.